Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, la scuola è ripresa un po' dappertutto e quest'anno fra l'altro apre l'anno scolastico nel segno della riforma che è stata approvata pochi mesi fa. Sarà la volta buona per cambiare la scuola e di che cambiamenti ha bisogno la scuola? Forse è meglio non illudersi troppo, non per sfiducia nei confronti di questa riforma, ma perché nella scuola in realtà da 2000 anni a questa parte non cambia nulla, almeno questa è la tesi del libro di cui adesso vi parlo, che si intitola Il lamento dell'insegnante. L'autore è Alessandro Banda, che egli stesso un docente, un professore di liceo a Merano. Il libro è pubblicato da Guanda, 174 pagine, 15 euro. Questo non è un libro né di pedagogia o di sociologia, ma e non è neanche il solito lamento sulla crisi della scuola, ma è la rassicurante, in qualche misura, presa d'atto che, appunto, come dicevo prima, la scuola non è mai stata una gioia per chi la deve frequentare, anzi è il tempio della noia, che secondo l'autore è una componente essenziale della scuola. Del resto, aggiunge Banda, la noia è il più sublime dei sentimenti umani. Per giungere a questa conclusione, Banda segue un percorso interessante, cioè prende in esame una decina di autori classici, soprattutto dell'antichità, che hanno lasciato testimonianze sulle proprie esperienze educative, ovvero hanno parlato di esperienze educative. Si parte da Orazio, del suo maestro Orbilio Pupillo, lesto anche di Ferula, cioè di Verga, che additava ai suoi annoiatissimi allievi antichi autori altrettanto noiosi e già rifiutati allora dagli studenti, allo stesso modo in cui quelli contemporanei rifiutano di leggere gli autori di uno o due secoli fa. E poi incontriamo Petronio, Giovenale, Sant'Agostino, Dante e anche autori più vicini a noi, Rabelais, Montaigne, Mann, ci sono anche degli italiani, Manganelli, Ridolfi, e di questi adesso parliamo con l'autore. Buonasera ad Alessandro Banda. Buonasera a lei. Alessandro Banda, nel suo libro lei scrive nelle prime pagine che la noia ha sempre regnato sovrana nella scuola, insomma questa tendenza è irriformabile, irredimibile, non c'è niente da fare? Secondo me no, perché nasce dalla contraddizione tra il libero impulso che ognuno di noi ha all'apprendimento e la scansione, la regolamentazione burocratica di questo. Quindi la noia è la conseguenza di questa contraddizione tra libertà e scansione burocratica. Una contraddizione che non è recente, come dimostra il suo excursus che parte da Orazio. Eh sì, in pratica c'è sempre stata, insomma, Orazio si annoiava quando doveva leggere sotto i colpi della sferza del suo maestro Orbilio, che gli faceva leggere Livandronico, poi è proseguita, insomma, Giovenale, Agostino, Dante, insomma, tutti testimoniano questa noia che nasce nelle aule scolastiche. Lei poi nelle ultime pagine del libro invece definisce questa contraddizione come il peccato originale della scuola, riprende appunto questo concetto: l'apprendimento è libero per sua natura, uno impara quello che vuole, dove vuole, soprattutto quando vuole, invece a scuola si è costretti ad imparare. Quindi questa tendenza condanna la scuola appunto a questa situazione. Sì, e quindi nessuna riforma può sanare questo, appunto è un peccato originale, insomma non c'è niente da fare. L'unico rimedio sarebbe quello di rendere la scuola il meno scolastica possibile, insomma, che è quello che poi consigliava di fare Montaigne e prima di lui consigliava Rabelais, cioè di fare imparare ma senza nessuna cornice burocratica esterna, insomma, come se l'apprendimento avvenisse spontaneamente, senza nessuna guida. E lei che è insegnante ci prova a fare questa, a raggiungere questo obiettivo? Sì, io ci provo, però i risultati, diciamo, non sono sempre esaltanti. Ma le reazioni dei suoi colleghi, dei dirigenti scolastici, come sono? Allora, i dirigenti scolastici generalmente, se un insegnante cerca di fare qualcosa di nuovo, lo lasciano fare. Per me non sono mai stati un problema i dirigenti. I colleghi sono piuttosto il problema, perché purtroppo nella mia esperienza la categoria degli insegnanti non ha la minima solidarietà, il minimo spirito di corpo, e se possono mettere i bastoni tra le ruote lo fanno molto volentieri. Infatti lei denuncia questo fatto che c'è un individualismo sfrenato fra i suoi colleghi. Sì, e questo è contrario anche alle tendenze recenti della scuola, no? Con l'ultima riforma, con la Gelmini, ci sono previste proprio nell'orario delle collaborazioni, e quindi bisognerebbe lavorare in team, no? E invece di favorire l'insegnamento, queste collaborazioni, creandosi sempre dei conflitti, delle frizioni, lo ostacolano. Ecco, un'altra categoria che ci mette del suo per peggiorare la situazione sono i genitori. Lei a un certo punto ne parla, quando parla di Petronio, il precettore Agamennone se la prende proprio coi genitori, che scrive: vogliono una scuola facile e veloce, 4 baggianate da assorbire in fretta per poter avviare subito i figli alla carriera forense. Anche qui non è cambiato molto, oggi i genitori sono più dalla parte degli ignoranti che non degli insegnanti. Purtroppo penso che qualunque insegnante le può confermare questo, che a volte si rivelano più maturi gli alunni, gli studenti, che quando uno mette un'insufficienza loro riconoscono che quell'insufficienza è meritata, poi arriva il genitore e protesta e vuole che l'insegnante gliela tolga, quindi è incredibile, no? Il giovane che è più maturo dell'anziano. Di questi autori che ha esplorato, qual è quello che le ha riservato le sorprese maggiori? Maggiore probabilmente Dante, perché diciamo, dai documenti risulta che nessuno prima di Dante aveva parlato della sodomia, delle caratteristiche di sodomita di Brunetto Latini, cioè lui, no, che pur tratteggiandolo con quel rispetto, con quella reverenza tipica del maestro, però lo mette all'inferno, cioè è un gesto gratuito, avrebbe potuto benissimo metterlo tra i lussuriosi nel purgatorio, dove tra l'altro mette il suo maestro ideale Guinizelli, invece Brunetto Latini lo schiaffa all'inferno. E poi nella Divina Commedia, come lei scrive, l'esame di teologia assume una funzione, un'importanza eccelsa. Sì, questo è nel canto 24esimo, dove Dante viene esaminato sulla fede da San Pietro, e l'esame ricalca le procedure della Sorbona, anche con i termini, sono bachelier, anche con dei francesismi, e quindi sembra che il viaggio a Parigi, che gli attribuiscono sia il Boccaccio sia il Villani, sia reale, sia vero, ma linguisticamente sembrerebbe che sia realtà. Venendo ad autori più recenti a noi, cioè Mann e Musil, lei parlando di loro solleva un altro caso importante, che è quello degli studenti intelligenti, o potremmo dire troppo intelligenti, che disturbano in qualche misura quella che è la routine degli insegnanti. Anche questo è una situazione che si perpetua. Sì, perché sia in Mann sia in Musil c'è questo. In Musil lo studente Törres che pone al professore di matematica una domanda sui numeri immaginari e il professore non sa come rispondere. In Thomas Mann è il giovane Hanno, che è molto sensibile, molto portato verso la musica, e anche lui mette in difficoltà i suoi maestri. Ma questo è perché la scuola è tarata sulla media, e quindi l'alunno eccellente e purtroppo anche l'alunno debole vengono trascurati, insomma. Lei scrive infatti che il compito della scuola non è quello di favorire il genio, quanto quello di appiattirlo, di annullarlo, di schiacciarlo verso la media. L'obiettivo è implementare la mediocrità. Ecco, secondo lei bisognerebbe fare dei corsi per intelligenti allora? Beh, in un certo senso sì, cioè, no, bisognerebbe capire i talenti di alcuni alunni e svilupparli, insomma. Poi questi alunni potrebbero insegnare a loro volta ai loro colleghi, no? Insomma, una specie di scuola del mutuo soccorso come c'era nell'Ottocento, ma sicuramente è vero che l'alunno capace si annoia, è un dato di fatto. E in questo senso la scuola può diventare una scuola di vita, perché, la cito sempre, è bene, scrive lei, che il giovane si addestri all'incontro con l'arbitrio, con l'ingiustizia, con il merito non riconosciuto, con il favoritismo smaccato, se non con l'idiozia pura, con la demenza e talora con la follia, o con ciò che le va molto vicino. Quindi bene o male una scuola di guerra, questa scuola mediocre. Sì, ma io perché per molto tempo io pensavo che fosse bene avere solo ottimi insegnanti preparati anche dal punto di vista, diciamo, psicologico, comprensivi eccetera, ma nella vita poi non c'è, insomma, sono pochissimi quelli così, insomma, il giovane, se la scuola è un'iniziazione all'esistenza, è bene che si addestri a conoscere le reali dimensioni dell'esistenza, e che nell'esistenza si troverà spesso ad avere a che fare con l'arbitrio, con l'ingiustizia, anche con la demenza, con la follia, e quindi secondo me è un po' fare di necessità virtù, è bene che la scuola sia com'è. E dunque non illudiamoci che le nuove tecnologie possano risolvere la situazione. Ma questo proprio penso di no, insomma, come dicono gli inglesi, no? Gli americani, trash in, trash out, cioè se nel computer tu ci metti tu quello che sai, no? Una frase intelligente è una frase intelligente, una frase idiota è una frase idiota, sia che io la scriva con la matita, sia che la scriva al computer o sul tablet o quello che è, insomma, non, è un supporto, cambia il supporto, ma non è che incida poi molto il supporto. Grazie ad Alessandro Banda, autore de Il lamento dell'insegnante. Buona serata. Grazie a lei. Un libro di argomento scolastico che mi sembra sollevi alcuni temi proposti da Banda è quello di Paola Mostrocola, che è una docente anche in un liceo scientifico, poetessa, studiosa di letteratura italiana e autrice di molti noti libri sulla scuola. L'ultimo si intitola La passione ribelle, pubblicato dalla Terza, 164 pagine, 14 euro. Chi studia è sempre un ribelle, scrive l'autrice, sottolineando l'aspetto eversivo di chi studia e quindi si vuole opporre con questo suo comportamento all'andazzo generale, vuole trovare il modo di cambiare le cose. Questa passione, questo atteggiamento, secondo l'autrice, sono ormai tramontati assolutamente minoritari. Studiare è noia, come abbiamo sentito prima, dovere, e così appunto chi non studia si priva degli strumenti per non vivere solo nel presente e per non apprezzare le cose senza riflettere su a che cosa servono. Infine, un libro di argomento scolastico e che ha un ulteriore elemento di attualità è il libro di Giuseppe Brienza, Don Milani e Papa Francesco, L'attrazione della testimonianza, pubblicato da Cantagalli, 150 pagine, 10 euro. Il libro vuole stabilire un collegamento tra il Papa, tra Francesco e Don Milani, il prete vissuto tra il 1923 e il 1967, che fu curato a Barbiana, dove era stato esiliato per certe sue posizioni, dove nacque uno dei libri più famosi del dopoguerra, La lettera a una professoressa, che parla appunto di politica scolastica. Che cosa hanno in comune due figure ormai così lontane nel tempo? La condanna del Papa del proselitismo per l'adozione invece di un approccio autenticamente apostolico, in cui l'apostolato gioca un ruolo molto importante. Qui Brienza cita il cardinale Civarria, al quale ricorda che la via apostolica indicata da questo Papa è proposta trasparente e rispettosa di una dedizione generosa che racchiude una testimonianza pienamente consapevole della libertà e della dignità della persona. E il libro ripercorre quindi la vita di Don Milani, che è aperto appunto a questa prospettiva, che trovò particolare espressione proprio nella sua idea di scuola. E anche qui ci sono dei paralleli interessanti con l'esperienza di Bergoglio. Don Milani, per esempio, scriveva: su una parete della nostra scuola c'è scritto grande I care, è il motto intraducibile dei giovani americani migliori, me ne importa, mi sta a cuore, il contrario esatto del motto fascista, me ne frego. E l'arcivescovo di Buenos Aires, aggiunge l'autore, pur senza citarlo espressamente, Bergoglio ha proposto il motto milaniano all'insegnante che vuole continuare a vivere a fondo la sua missione. Sebbene la cultura profondamente antisolidale in cui viviamo, queste sono parole del Papa, lo spinga quotidianamente a fare spallucce dicendo che me ne importa. E a questo punto ci interrompiamo per un attimo, ci sentiamo fra pochi istanti. Con Radio 24 è tutta un'altra domenica, con grandi conferme e nuovi acquisti, con una nazionale di grandi nomi. Pino Insegno, Maria Latella, Rosita Celentano e Angelo Vaira, Pierluigi Pardo, Filippo Astone, assieme ai conduttori più noti del palinsesto della radio, Giovanni Minoli, Gianluca Nicoletti, Enrico Ruggeri, Gegè Telesforo, Alessio Maurizi e tanti altri. Una domenica per pensare, riflettere, emozionarsi e divertirsi con le storie, le voci più belle del cinema, la musica d'autore, la grande attualità e il racconto della storia, la vita delle donne e uno speciale processo al calcio che non può mancare nella domenica degli italiani. Su Radio 24 la passione si sente e la domenica l'emozione si vive. Radio24.it è sempre con te, anche in viaggio. Con Consulta la mappa del traffico aggiornata in tempo reale. Potrai conoscere la viabilità del luogo in cui ti trovi e avere tutte le info su code, cantieri e altre criticità. Clicca su Mappa e scopri il nuovo servizio su radio24.it. Radio 24, la passione si sente anche in viaggio. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba, parliamo adesso di un tema molto di moda e che appassiona sempre di più, il cibo. E il cibo può essere oggetto anche di riflessione storica e sociale in forma anche molto divertente, come dimostra l'ultimo libro di Massimo Montanari, che è uno storico del Medioevo e dell'alimentazione, che è stato anche ospite della nostra trasmissione. Il suo ultimo libro si intitola Mangiare da cristiani, diete, digiuni, banchetti, storie di una cultura, pubblicato da Rizzoli, 270 pagine, 22 euro. Il cristianesimo nei confronti del cibo, ci spiega Montanari, compie una rivoluzione, testimoniata da una pagina degli Atti degli Apostoli. Non ci sono più cibi puri e impuri, a differenza dell'ebraismo, proprio perché il cristianesimo si apre a tutti. Il rapporto con il cibo dunque dovrebbe essere un fatto di responsabilità che implica una riflessione sul cibo e sul significato immaginario e simbolico che esso può assumere. Una responsabilità difficile da definire, tanto che il cristianesimo continuerà, per la verità, a indicare regole e modelli su come e su cosa si debba mangiare. A un certo punto ciò che si mangia diventerà addirittura, per esempio nel XII secolo, un simbolo di evidente eresia. Insomma, il messaggio di libertà, scrive Montanari, uscito dai primi scritti cristiani, viene nella sostanza ignorato e tradito, perché l'uomo ha bisogno di certezze e di regole. E allora nel libro troviamo un viaggio nella storia di questo rapporto, a partire da quello più indissolubile e caratterizzante, il rapporto con il pane e con il vino, e l'altro più problematico, quello con la carne. E proprio il rapporto con la carne caratterizza e spiega l'origine e l'osservanza della Quaresima, come ci spiegano adesso queste righe di Montanari. La pratica dell'astinenza, nel momento in cui fu imposta a tutti, assunse un valore diverso, anche un valore diverso da quello penitenziale che l'aveva originariamente connotata, configurandosi piuttosto come segno di appartenenza culturale, come collante di un'identità non solo religiosa, ma in senso lato sociale e politica. Quando Carlo Magno ordina la cristianizzazione forzata dei sassoni che vivono a est del Reno, decretando la pena di morte per quanti non osservano il precetto quaresimale, non sta certo pensando di sottoporli a una pratica di penitenza, ma semplicemente di assoggettarli, costringendoli a un gesto di conformismo sociale. Sul piano gastronomico, la diffusione del calendario alimentare cristiano implica la fortuna, per certi versi impensata, dei cibi alternativi alla carne, verdure ovviamente, e legumi, e preparazioni a base di cereali. Il successo della pasta, iniziare dal Medioevo, è legato anche alla sua inclusione fra le vivande di magro, e poi il formaggio, le uova e soprattutto il pesce, dal momento in cui, molto presto, esso viene ammesso in sostituzione della carne e anzi diventa in qualche modo un vero e proprio simbolo del vitto quaresimale. Non per nulla in alcune città europee, per esempio Firenze, è una sola società commerciale, una sola arte a gestire alternativamente la vendita della carne o del pesce. La divisione di ruoli è netta. La battaglia tra carne e pesce, carnevale e quaresima, è un'invenzione letteraria, diffusa a iniziare dal XIII secolo, che cela una profonda complementarietà fra consumo di carne e consumo di pesce, opposti ma cavallerescamente alternati nel corso dell'anno. E a questo punto il confettino. Vi segnalo un altro libro di Massimo Montanari, scritto questo per i ragazzi e riproposto dalla Terza. Si intitola Il pentolino magico, ha le illustrazioni di Emanuele Luzzatti, 148 pagine, 9,50 euro. Partendo da una celebre fiaba nordica ripresa dai fratelli Grimm, l'autore qui propone ai lettori più giovani diversi temi relativi appunto all'alimentazione, grazie anche al lavoro effettuato con gli alunni di una scuola di Imola. Si accenna qui anche a uno dei temi che sono ripresi nel libro di cui ho appena parlato, quello della religione del pane, con richiamo a un celebre discorso di Sant'Agostino, secondo il quale il modo per diventare perfetti cristiani è molto simile al processo di formazione del pane. La storia di ciò che mangiamo è un libro che ha vinto un importante premio di letteratura gastronomica, ne autore Renzo Pellati, esperto di alimentazione e di igiene, è pubblicato da Daniela Piazza, 446 pagine, 28 euro, e questa è una sorta di enciclopedia anche fotografica sulla tavola. Non si parla solo di cibi, ma di costumi, tradizioni, storia, galateo e anche curiosità alimentari. Per esempio scopriremo se esista veramente il brodo di giuggiole, chi abbia inventato l'abbinamento tra prosciutto e melone, perché i cuochi indossano il cappello bianco a cilindro, se la parmigiana sia veramente di Parma e così via. Insomma, tante curiosità per metterci a tavola più consapevoli. Ma perché ci sediamo a tavola? Perché mangiamo? Risponde un libro che presenta una conferenza tenuta a Milano al Circolo Filologico di un notissimo scienziato, Edoardo Boncinelli, che si intitola appunto Perché si mangia, è pubblicato da Book Times, 66 pagine, 6,50 euro. Il libro contiene anche la versione in inglese di questo testo. Boncinelli qua spiega che la domanda sul perché si mangi non è oziosa, perché implica una riflessione sulla natura stessa di essere vivente, per il quale il cibo è anche informazione, e quindi la risposta al perché mangiamo diventa la risposta alla domanda perché dobbiamo introdurre, scrive Boncinelli, dentro di noi un flusso continuo di materia, di energia e di informazione. Un romanzo di cui è protagonista una golosità è Tre tazze di cioccolata di Care Santos, scrittrice e giornalista catalana, è pubblicato da Salani, 464 pagine, 18,60 euro, tradotto da Sara Cavarero. E qui troviamo tre generazioni di cioccolataie unite dalla passione per il mestiere e dal possesso di un'antica cioccolatiera, uno strano oggetto in porcellana capace di preparare soltanto tre tazze di cioccolata. Quante sono le protagoniste di questo romanzo che si snoda in una Barcellona che scopriremo in uno svolgimento scandito da capitoli intitolati a grandi opere liriche. A proposito di alimentazione, ricorda che ormai ci stiamo avvicinando all'ultimo mese dell'Expo di Milano, e allora vi voglio parlare di due libri che in qualche misura tengono conto di questo grande appuntamento milanese. Il primo si intitola Smart Milan, che è un libro in inglese di uno storico del Politecnico, Mattia Granata, che ci parla delle trasformazioni da un Expo all'altro, cioè da quella del 1906, svoltasi appunto a Milano, all'ultima che si sta appunto per chiudere il mese prossimo. Il libro è pubblicato da Springer, 236 pagine, ed è sostanzialmente una storia di Milano nell'ultimo secolo, perfetta se volete far conoscere questa città a qualche amico straniero, che potrà trovare qui nei testi e nelle immagini il senso, il filo dell'evoluzione, delle ambizioni di Milano, così come si sono realizzate in questo poco più di un secolo. L'altro libro che vi voglio presentare, sempre milanese, è un titolo che fece un grande scalpore 50 anni fa. È un libro fotografico di Carlo Orsi, che allora era un giovanissimo fotografo, e quel libro era accompagnato nella versione di allora dalle parole di Dino Buzzati. Ora il libro torna aggiornato, l'autore è sempre Carlo Orsi, che ha fatto una nuova campagna fotografica e pubblica Milano 2015, con la presentazione in questo caso di Aldo Nove. Il libro si presenta esattamente nella forma di allora, con lo stesso progetto grafico curato anche stavolta da Giancarlo Liprandi. Il libro è pubblicato da Schirà, 112 pagine, un libro di grande formato, costa 80 euro ed è una testimonianza molto bella sul cambiamento di Milano che potremo vedere nelle immagini di Carlo Orsi. Ultimi arrivi. Dedico questa puntata di Ultimi Arrivi a un solo libro, il libro di cui vi avevo parlato quando era scomparso Sebastiano Vassalli, la sua ultima fatica, La Chimera, che viene adesso pubblicato da Rizzoli, 286 pagine, 19 euro. Anche questo è, come molti precedenti di Vassalli, un romanzo storico che si snoda a Roma dal 1653 e ne è protagonista Suor Giulia De Marco o Suor Partenope. che racconta della sua vita e della sua Napoli e che ci farà scoprire la nuova Roma di cui è autore Gian Lorenzo Bernini. Come spiega Vassalli nel congedo di questo libro, che purtroppo diventa anche un congedo definitivo dei suoi lettori, Sor Partenope è una figura storica coinvolta nella drammatica vicenda che viene ripresa appunto da Vassalli, ma soprattutto questo romanzo, ci scrive l'autore, è l'ultima tappa di un viaggio che mi ha portato a vedere il mio paese, l'Italia, dalla parte delle radici. E qui appunto riassume questo viaggio nella storia d'Italia condotta attraverso i suoi precedenti romanzi storici, come ci spiega nelle ultime righe che adesso vi propongo. L'Italia è un patchwork di popoli e di culture. Non viene da una storia comune. Non ha una ragione unica. O se ce l'ha, e per forza di cose prima o poi dovrà averla, è un insieme di tante ragioni. Sono partito dal Ducato di Milano e dalla Lombardia del Vescovo Bascapè e della strega Antonia per parlare di una modernità che stentava a nascere, tenuta a freno da una religione che, pur considerandosi universale, era una parte cospicua della storia di questo paese. Con Matteo Lovat ho raccontato la morte di Venezia e l'ultimo atto di una vicenda che aveva avuto momenti di vera grandezza e di straordinario splendore. Con Dino Campana ho raccontato la Firenze degli artisti tra 800 e 900 e l'Italia della cosiddetta Belle Époque, che non fu un'epoca particolarmente bella o felice. Ho raccontato l'emigrazione verso altri continenti, la Grande Guerra, i manicomi. Con Raffaele Palizzolo, il Cigno, sono arrivato al primo grande processo di mafia dell'Italia Unita. Ho raccontato la Sicilia e la mafia come nessuno mai le aveva raccontate, senza mescolare e confondere le carte per amore di patria e per orgoglio isolano. Con Giulia Di Marco e Gian Lorenzo Bernini ho rivissuto la chiusura maschile di una chiesa e di una religione. La religione dei papi, che mirava al dominio del mondo. Quella religione nel presente non sembra poter avere un futuro, perché la politica ormai si fa altrove. E con questo ringrazio Luca Cremonesi, redazione, Valeria Bernardi, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.